La teoria delle stringhe è nata... È democratico perché... Per OGM si intende... L'effetto placebo... Da Bacon. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 13 marzo 2010 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. E in questa puntata, quindi questo sabato di Caccia al Fotone, proveremo a parlare un'altra volta, come abbiamo fatto l'anno scorso, di neuroni specchio. Ne parleremo prendendo spunto da una ricerca appena pubblicata su Neuropsicologia che cerca di analizzare la differenza del sistema specchio nel cervello femminile e nel cervello maschile. Parleremo di questa scoperta, di questa ricerca, insieme alla professoressa Alice Mado Proverbio, professore di psicobiologia presso l'Università Milano Bicocca. Buongiorno professoressa. Buongiorno a voi. Professoressa, all'inizio abbiamo, come lei sa, le 100 parole iniziali per introdurre la trasmissione e quindi in 100 parole io le chiedo di essere sintetica e di spiegare, secondo lei, come potremmo spiegare i neuroni specchio. Dunque, i neuroni specchio sono dei neuroni visuomotori, cioè dei neuroni sensibili all'informazione visiva e che al contempo controllano il movimento, che sono interessanti perché sia nella scimmia, sia nei macachi che nell'essere umano sono in grado di riconoscere il significato di gesti, di azioni finalizzate, dotate di scopo, e sono anche coinvolte, oltre che nella comprensione delle azioni, anche nella codifica, cioè nell'esecuzione delle stesse azioni. Benissimo professoressa, a questo punto ci andiamo ad ascoltare un pochino di musica. Nella prima parte della trasmissione anticipo un pochino il contenuto di Caccia Fotone, proveremo a descrivere i neuroni specchio, quindi nella loro interezza, come si possono spiegare, che cosa sono e le varie differenze fra i vari tipi di neuroni specchio. Nella seconda parte della trasmissione cercheremo invece di analizzare proprio questa ricerca appena apparsa su Neuropsicologia. Però all'inizio recupereremo una vecchia intervista andata in onda l'anno scorso insieme al professor Rizzo Latte, che è appunto lo scopritore dei neuroni specchio. Quindi musica, poi torniamo in studio e poi di nuovo a Caccia Fotone. And live inside the silver screen or on pages of magazines at street corner stores. High above the avenue, everything I touch would turn to gold. The air outside, it won't come in unless it's filtered oxygen. I'd never grow old. Secluded in this tinsel town where nothing I were E bentornati in studio, cari radioascoltatori, di nuovo a Calcio Fotone. Quindi do il benvenuto sia a coloro che stanno ascoltando questa trasmissione in streaming dal sito www.calciofotone.it, sia a coloro che stanno ascoltando questa trasmissione dal sito di Radio Città Fucico, oppure semplicemente in modulazione di frequenza, come si diceva una volta, attraverso la radio. Stiamo parlando in questo sabato di neuroni specchio, stiamo cercando di parlare di neuroni specchio analizzando una ricerca uscita qualche tempo fa che analizzava la differenza del sistema specchio nel cervello maschile rispetto al cervello femminile. Stiamo parlando con la professoressa Alice Madofroverbio, professore di psicobiologia presso l'Università Milano Bicocca. All'inizio però, all'inizio della trasmissione, proveremo a sentire una vecchia intervista, un'intervista andata in onda l'anno scorso, appunto con Giacomo Rizzolatti, che è lo scopritore effettivo di questi neuroni specchio. Si narra che Giacomo Rizzolatti sia in odore di Nobel, però lo diciamo a bassa voce. Negli anni Ottanta io con altri studiavamo l'organizzazione della corteccia motoria e ci eravamo imbattuti in un particolare tipo di neuroni che adesso si chiamano neuroni canonici, che sono importanti per trasformare un oggetto in un'azione. Cioè, se lei è di fronte a una mela sa immediatamente come bisogna pigliarla, la piglia con tutta la mano; se invece è di fronte a un semino la piglia con due dita. Ecco, questo tipo di processo che noi facciamo automaticamente ha una base neurale, e noi abbiamo scoperto che c'era dei neuroni che trasformavano l'oggetto in un movimento. E in quegli anni, mentre facevamo quella ricerca, intanto si era cambiato il team, erano arrivati questi ragazzi giovani che erano i miei studenti, Galese, Fadiga e Fogassi. Ci siamo accorti che mentre studiavamo appunto queste altre proprietà c'erano dei neuroni che si attivavano, che volevano non solo la presentazione dello stimolo ma un'azione su quello stimolo. Cioè, non bastava fargli vedere una mela, bisognava che la mia mano pigliasse la mela. E interessante era che c'era una netta congruenza tra quello che facevo io e quello che faceva la scimmia. Professoressa, è sempre un po' emozionante sentire il professor Rizzolatti che parla della sua scoperta. È bellissimo sentire Rizzolatti in persona che descrive il momento della scoperta. Infatti, professoressa, ci siamo sentiti questo piccolo intervento di Rizzolatti recuperato dall'anno scorso, in cui Rizzolatti analizzava un pochino la sua scoperta, quindi il momento della scoperta dei neuroni specchio. Però se andassimo più nel dettaglio, come abbiamo promesso ai nostri radioascoltatori, in più di 100 parole, visto che all'inizio siamo stati molto sintetici, come potremmo definire i neuroni specchio spiegandoli dal punto di vista scientifico, e quindi biologico e quindi medico? Diciamo che i neuroni specchio a cui si riferisce il professor Rizzolatti, quelli del macaco, sono neuroni di cui noi abbiamo una misurazione diretta. Cioè, noi sappiamo che questi neuroni sono attivi sia quando vedono un gesto finalizzato, per esempio raggiungere un certo oggetto, sia quando l'animale stesso compie quel gesto. Nell'essere umano la tecnica utilizzata da Rizzolatti, cioè la registrazione da singola cellula con microelettrodi, quindi la neurofisiologia, naturalmente non è una tecnica possibile, per cui si cercano delle metodiche indirette per osservare il modo in cui il cervello è in grado, appunto come nella scimmia, di comprendere i gesti e anche di codificarli. Tra queste metodiche dirette ci sono le tecniche di neuroimmagine, come la risonanza magnetica funzionale, la PET e la elettrofisiologia, che noi abbiamo utilizzato appunto in quello studio di cui lei parlava, la tecnica dei potenziali correlati dei 20. E il paradigma particolare, nuovo, che noi abbiamo utilizzato per la prima volta, ci ha consentito di mettere a confronto la percezione di scene umane in cui degli attori eseguivano dei gesti finalizzati, dotati di scopo, comprensibili quindi per la loro finalità, con la percezione di azioni assolutamente corrette dal punto di vista motorio, ma mancanti di finalità, quindi incomprensibili dal punto di vista dello scopo. Quindi, mettendo a confronto queste due situazioni e confrontando appunto l'attivazione cerebrale nelle due condizioni, abbiamo cercato appunto di stimolare il riconoscimento dell'azione dotata di scopo da questi sistemi, appunto, che noi chiamiamo neuroni specchio. Possiamo anche comunque non chiamarli neuroni specchio, sono dei sistemi visuomotori di neuroni che codificano l'azione sia dal punto di vista visivo che dal punto di vista motorio. Professoressa, lei giustamente ha un po' introdotto la ricerca di cui parleremo nella seconda parte della trasmissione, che abbiamo un po' anticipato, in cui si analizzava un po' la differenza fra il sistema specchio nel cervello maschile e nel cervello femminile. Effettivamente, se potessimo dare una definizione, i neuroni specchio in osservazione si mettono nella stessa posizione rispetto ai neuroni specchio che stanno compiendo un'operazione? Allora, direi che è un sistema, un circuito neurale. Allora, dipende da quello di cui stiamo parlando. Se stiamo parlando di gesti singoli come un braccio o una zampa di un animale che raggiunge un oggetto, evidentemente si tratta di un gesto molto elementare, no? Quindi anche il circuito che riconosce questo gesto, questa azione è molto semplice. Se parliamo di scene e della capacità degli esseri umani di capire lo stato d'animo, le intenzioni degli altri, semplicemente osservando il loro comportamento, naturalmente questo circuito, questo sistema di neuroni specchio diventa più complesso e quindi ne fanno parte regioni che non erano ufficialmente parte del sistema frontoparietale di neuroni specchio descritto originariamente, diciamo, da Rizzolanti e il suo gruppo sulla base degli studi sul macaco. Il sistema, diciamo, originario base dei neuroni specchio comprende i neuroni cosiddetti F5 della corteccia frontale inferiore, l'area premotoria, i neuroni della corteccia parietale sinistra, che di solito codificano, cioè riconoscono il significato del gesto, cosa sta facendo una persona, e questi sono i due sistemi principali, no? Che si attivano anche nel macaco. Diciamo che quando noi percepiamo una scena complessa, quindi guardiamo un'azione, attiviamo molte più regioni ovviamente, che fanno parte anche del circuito cosiddetto dell'empatia, che è appunto la capacità di immedesimarsi negli altri e di comprendere lo stato d'animo anche dal punto di vista emotivo e soprattutto comprendere le intenzioni, no? La teoria della mente. Quindi tutta una serie di aree molto complesse che vanno al di là dei neuroni specchio visuomotori, ma che fanno parte di questo sistema specchio e che includono, se possiamo fare qualche nome senza entrare troppo nei dettagli, il solco temporale superiore, senz'altro, la corteccia cingolata, la corteccia orbito frontale, le regioni visive che di norma codificano le facce e i corpi. Ecco, tutti questi sistemi fanno parte in qualche modo del sistema specchio perché ci consente di comprendere, guardando gli altri, cosa stanno facendo e anche perché lo stanno facendo. Quindi possiamo dire effettivamente che esistono due tipi di sistemi specchio: uno per comprendere le emozioni, quindi l'empatia, i sentimenti, che poi è quello che avete analizzato nella ricerca, e invece un secondo sistema specchio che è quello per imparare le azioni, che è quello che poi ha aiutato l'evoluzione dell'uomo. Beh, io direi, come cercavo di spiegare, noi quando osserviamo qualcuno contestualmente comprendiamo cosa sta facendo e anche in parte come si sente l'altra persona, non c'è questa differenziazione, diciamo, no? Se la scena è molto complessa, cioè se noi vediamo una persona reale, un agente reale in una situazione sociale complessa che fa qualcosa, è impossibile scindere la comprensione del gesto e anche la comprensione del suo stato d'animo, no? Perché è tutto un unicum, no? Per cui io parlerei di sistema specchio e a questo punto quindi fanno parte di questo sistema che ci consente di rispecchiarci negli altri, non solo la comprensione quindi del gesto motorio, ma la comprensione delle azioni, delle intenzioni della gente, che ci consentono di comprendere lo stato d'animo e anche affettivo, emotivo. Quindi io non distinguerei le intenzioni e lo stato mentale dallo stato emotivo e quindi dalle emozioni. Professoressa, a questo punto le voglio fare l'ultima domanda, che poi è l'ultima domanda di questa prima parte della trasmissione, poi ci andremo ad ascoltare un po' di musica e nella seconda parte proveremo ad analizzare veramente la ricerca che è stata appena pubblicata su Neuropsicologia. L'abbiamo anticipato prima, possiamo dire che i neuroni specchio sono stati assolutamente fondamentali per l'evoluzione della nostra razza Homo sapiens? Io direi senz'altro, è stato anche ipotizzato da alcuni eminenti esponenti del gruppo di Rizzolatti stesso, Gallesi, da tanti studiosi fisiologi, è stato ipotizzato che lo sviluppo del linguaggio, della capacità comunicativa, che è una prerogativa dell'essere umano, derivi in parte da questo sistema di neuroni, originariamente appunto di tipo visuomotorio, che sono in grado di riconoscere un gesto e si sia sviluppato, specializzato nei riconoscimenti di gesti comunicativi, no? Quindi l'animale che compie un gesto che sta a significare sto prendendo un frutto per mangiarlo, e poi via via gesti sempre più complessi che si riferiscono non solo a fatti ad eventi che non sono fisicamente presenti, quindi che vengono rappresentati simbolicamente da gesti. E questa ipotesi è stata proposta soprattutto per la coincidenza anatomica della regione che controlla il linguaggio, l'area di Broca, che è molto vicina alla regione in cui si trovano questi neuroni specchio. Perfetto, professoressa, a questo punto ci andiamo ad ascoltare un po' di musica, poi torniamo in studio e poi, una volta rientrati in studio, parleremo di quella ricerca di cui abbiamo accennato nel corso di tutto il cacciafotone di questo sabato. Benissimo. Do di nuovo il benvenuto a voi, cari ascoltatori che state ascoltando Cacciafotone attraverso lo streaming di Radio Città Fucico oppure attraverso il sito di www.cacciafotone.it. e per coloro che si fossero messi in ascolto solamente ora, riassumo un attimo quello che abbiamo ascoltato. Stiamo sentendo la voce della professoressa Alice Mado Proverbio, professore di psicobiologia presso l'Università Milano Bicocca. In questa trasmissione stiamo focalizzando la nostra attenzione espressamente sui neuroni specchio. Come vi ricordate, l'anno scorso abbiamo avuto ospite il professor Rizzolatti, abbiamo sentito un piccolo estratto di quell'intervista, però all'interno di questa trasmissione, all'interno di questo cacciafotone di questo sabato, stiamo provando ad analizzare una ricerca apparsa qualche giorno fa su Neuropsicologia, in cui si analizza la differenza del sistema specchio nel cervello femminile rispetto al cervello maschile. E quindi andiamo ad analizzare questa ricerca, una ricerca che è stata fatta, che è stata realizzata attraverso lo studio di 23 soggetti. Sì, Dunque, noi abbiamo applicato, come dicevo inizialmente, una tecnologia che si chiama quella dei potenziali correlati ad eventi, che prevede la registrazione dei potenziali elettrici che il nostro stesso cervello produce quando i neuroni sono attivi in diverse situazioni, e abbiamo utilizzato questa tecnica per lo studio appunto della codifica visiva, quindi percettiva, di scene umane. Abbiamo messo a confronto, come anticipavo prima, delle scene in cui delle persone compiono dei gesti dotati di significato che fanno parte del normale repertorio comportamentale, quindi che ne so, due persone che brindano insieme o un dottore che scrive una ricetta per un paziente, e abbiamo messo a confronto queste scene con delle situazioni in cui delle persone compiono dei gesti insensati e di cui non si capisce proprio la finalità. Per esempio, una persona che si trova immersa nell'acqua gelida circondata dagli iceberg che parla al cellulare tranquillamente, o una persona ben vestita che si trova su una gamba sola in mezzo al deserto, situazioni incomprensibili, no? E abbiamo chiesto alle persone che hanno partecipato al test, qui che sono studenti universitari, giovani adulti, maschi e femmine, di non concentrarsi particolarmente su queste immagini, perché volevamo evitare che mettessero in atto dei sistemi per cui possono venire fuori delle differenze soggettive per quello che riguarda la morale, l'etica soggettiva, no? Soprattutto per le azioni inappropriate. Ma le abbiamo chiesto di premere un tasto più velocemente possibile quando vedevano comparire un paesaggio, quindi un paesaggio privo di persone. Il nostro scopo era quello proprio di vedere le scene e i gesti dotati di scopo rispetto a quelli non significativi, proprio per stimolare il sistema di neuroni specchio. Senta, io ho molte curiosità da chiederle, quindi comincio con la prima. Perché avete utilizzato questo paradigma linguistico che voi nel lavoro chiamate N400 al posto di altri che vengono utilizzati normalmente per fare altre analisi, quindi altri studi su questo campo? Appunto, come anticipavo prima, nell'essere umano, essendo impossibile andare a registrare direttamente l'attività dei neuroni specchio, è necessario mettere a punto un paradigma che in qualche modo stimola l'attività di questi neuroni in condizioni che possono essere messe a confronto, quindi maggiore attività, maggiore sollecitazione versus minore sollecitazione, si fa un confronto dell'attività cerebrale, no? Per vedere quali strutture corticali rispondono di più quando noi guardiamo qualcuno che compie un gesto che comprendiamo rispetto a quando non lo comprendiamo. E questo tipo di paradigma che lei anticipava della N400 viene utilizzato nello studio del linguaggio, quindi quando si vuole cercare di capire come il cervello è in grado di comprendere il linguaggio, si usa la stessa tecnica, si presentano delle frasi sensate, per esempio Luigi mangia pane e formaggio, si registra l'attività del cervello e si confronta con la situazione in cui si presentano frasi senza senso, per esempio Luigi mangia pane e cemento, quindi si vede quali regioni del cervello reagiscono all'incongruenza semantica, quindi si va a cercare di localizzare quali sono per capire quali appunto contribuiscono alla comprensione del linguaggio. E andiamo a questo punto al nodo del lavoro, quello di cui stiamo discutendo ormai dall'inizio di Caccia al Fotone, che è proprio la differenza fra il sistema specchio nel cervello femminile e il sistema specchio nel cervello maschile. Diciamolo così, il cervello femminile risponde allo stimolo in 170-200 millisecondi, mentre il sistema maschile risponde in un tempo ragionevolmente più lungo. La mia domanda è questa: come mai il sistema specchio maschile è diverso dal sistema specchio femminile? C'è qualche motivo? Allora, si possono fare due ipotesi. Allora, innanzitutto quello che abbiamo osservato è una differenza, diciamo, nella accuratezza e nella rapidità dell'elaborazione, no? Quindi le donne sembrano riconoscere più velocemente quando un'azione è insensata. Le due ipotesi sono che, siccome è noto che il cervello femminile ha un sistema, diciamo, empatico, cioè di risposta empatica alla vista delle altre persone, più sofisticato, potremmo mettere in relazione questa maggiore rapidità a una differenza nella capacità empatica. Oppure c'è un'altra un'altra ipotesi che può essere insomma fatta, sollevata, e che in realtà, pur non essendoci una particolare differenza nel sistema di neuroni specchio tra maschi e femmine, e siccome i nostri soggetti erano impegnati in un compito secondario, ricordiamoci che dovevano premere un tasto alla comparsa di paesaggi inanimati, è possibile che gli uomini, i maschi, fossero particolarmente quindi interessati al paesaggio inanimato e meno interessati alla scena umana, mentre hai saputo che le donne rispondono più fortemente a scene dove sono presenti dei conspecifici degli esseri umani. Quindi, dedicando maggiore attenzione all'essere umano, anche se questo non era richiesto dal compito, evidentemente posso avere un tipo di elaborazione più precoce, più sofisticata, inclusa anche la capacità di rilevare che c'è un'azione insensata. Professoressa, lei prima diceva che il sistema specchio femminile è più complesso rispetto al sistema specchio maschile, ma più complesso in che senso e come mai più complesso rispetto al sistema dell'uomo? Allora, noi abbiamo anche dei dati specifici riferito a quest'ultima considerazione. Sempre in questo studio abbiamo trovato che appunto dopo i 400 millisecondi, cioè più o meno quando la persona diventa consapevole di quello che ha effettivamente visto, c'è una reazione diversificata per maschi e femmine alla vista dell'azione incongruente. In particolare nel cervello femminile si attivano delle regioni normalmente considerate affettive, cioè che caratterizzano affettivamente la percezione di un certo stimolo, che sono la corteccia cingolata e il sistema limbico. Nell'uomo invece si attivano regioni più razionali, cognitive, quindi diciamo che non c'è una risposta affettiva alla vista di una persona che compie un gesto insensato, ma c'è diciamo una constatazione di tipo cognitivo. Questa è già una prima differenza che ci fa riflettere, no? Sulla questione dell'empatia. L'empatia è la capacità sostanzialmente di immersi in un'altra persona, quindi condividendone, oltre che comprendendone, anche lo stato emotivo. Quindi io sono triste se vedo una persona triste, oppure provo disgusto se vedo un'altra persona provare disgusto. Quindi il fatto di essere più distaccato, meno empatico, nell'individuo di sesso maschile fa sì che naturalmente il sistema per l'empatia si attiva in misura minore. Quindi, professoressa, possiamo dire che è dimostrato scientificamente quello che la Vox Populi aveva sempre detto: le donne sono più empatiche, gli uomini lo sono di meno, quindi gli uomini sono più duri di cuore e le donne sono più sensibili. Diciamo che ci sono, sì, potremmo anche semplicemente concludere così, ma ci sono tante evidenze scientifiche che caratterizzano più in particolare questa affermazione. Innanzitutto la donna è più emotiva. Essere emotiva significa rispondere con un'attivazione cerebrale, aumento di frequenza cardiaca, aumento di frequenza respiratoria, quindi tutto il sistema nervoso centrale autonomico alla vista di un qualcosa, o anche al fatto di sentire qualcosa di emotivo, no? Un pianto, un grido, la vista di qualcuno che soffre. La donna reagisce con più emozione, questa è semplicemente l'emotività. È noto che l'uomo invece reagisce con una minore attivazione, quindi potremmo dire è più controllato. Oltre all'emotività c'è l'empatia, che non è la stessa cosa, è la capacità di immedesimarsi. L'empatia si manifesta quando, come dicevamo prima, io oltre a diciamo emozionarmi mi immedesimo e provo le stesse sensazioni. E ci sono effettivamente degli studi che mostrano reazioni diversificate in uomini e donne alla vista di immagini cosiddetti stimoli cosiddetti emotigeni, cioè che suscitano un'emozione positiva o negativa. D'altro canto, non è che la donna è sempre più eccitabile come cervello dell'uomo, l'uomo si eccita di più, nel senso si attiva di più alla vista di immagini erotiche, per cui insomma ci sono preferenze. Professoressa, quindi con questa sua affermazione, con questa sua conclusione, possiamo anche noi concludere il cacciafotone di questo sabato. Soprattutto nella settimana della festa della donna abbiamo trattato i neuroni specchio nel cervello femminile, abbiamo dimostrato scientificamente, lei ha dimostrato scientificamente che il cervello femminile è strutturato in maniera molto più complessa rispetto al cervello maschile, almeno dal punto di vista del sistema specchio. A questo punto saluto i nostri ascoltatori, gli ascoltatori di Cacciafotone e di Radio Città Fucico. L'appuntamento è, come al solito, sabato prossimo, stessa ora, stessa radio e stesso fotone, con l'augurio di una buona scienza a tutti. Grazie professoressa. Grazie a voi.